corso dura, i nostri corsi durano tutti una giornata solamente, proprio perché la funzione del corso per noi non deve essere quella di dare maggiore sicurezza e quindi trasferire all'allievo la consapevolezza di essere diventato più bravo, ma semplicemente consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità e maggiore conoscenza di quelli che sono i sistemi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli e delle situazioni di pericolo che possono presentarsi nella guida di tutti i giorni. Ecco, in una sola giornata siamo certi di poter ottenere questo primo risultato. E poi suggeriamo di frequentare periodicamente, diciamo una volta l'anno, nuovamente il corso, così come quando si apprende una nuova disciplina sportiva, ad esempio lo sci, si inizia facendo una prima giornata, una prima settimana e poi una volta l'anno si ritorna a frequentare un corso di formazione diventando sempre un po' più bravi.